Il Pinsimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio. Buongiorno ed eccoci alla 23esima puntata del Pinsimonio, in cui andremo a proseguire il filone cominciato ieri sul conflitto. Le parole di oggi sono sopruso, angheria, vessare, soverchiare e prevaricare. Cominciamo con una delle parole più conosciute tra quelle che ho sopracitato, che è sopruso, che indica esattamente un atto con cui, abusando della propria forza e autorità, si impone ad altri la propria volontà, ledendo i loro legittimi diritti e interessi. Subire un sopruso o non tollerare un sopruso. Simile a sopruso è l'angheria, che è usata soprattutto in senso figurato ad indicare un atto di prepotenza, un sopruso, una vessazione, imporre o subire angherie. E chi compie un sopruso o un'angheria sta vessando. Infatti il termine vessare significa tormentare, opprimere con maltrattamenti o facendo soffrire moralmente e materialmente, o recando grave molestia, popolazioni vessate dalla tirannide straniera. Da qui un sinonimo di vessare è soverchiare, che indica letteralmente il superare, il sormontare o l'oltrepassare. Superare nel senso di vincere, essere maggiore o più forte, o per estensione sopraffare, usare la propria potenza e autorità per imporre ad altri la volontà propria. In senso antico letterale indicava anche il sopravanzare, lo sporgere in fuori, e da qui anche l'avanzare nel senso di sovrappondare, esserci più che a sufficienza. Il participio passato è soverchiato, che ha un uso più verbale per indicare qualcosa di superato, vinto o sopraffatto. E l'ultima parola con cui terminiamo è prevaricare, che è una parola che deriva dal latino tardo praevaricare, che significava propriamente mancare al proprio dovere, come composto di pre e varicare, che significava allargare le gambe. Nella sua prima accezione, prevaricare significa abusare del proprio potere o della propria autorità, della propria influenza, per conseguire un fine disonesto o per ottenere dei vantaggi personali. Più genericamente significa oltrepassare i limiti di ciò che è giusto, comportarsi in modo disonesto contravvenendo alle norme della morale. Sono persone corrotte che vivono prevaricando gli altri. E come seconda accezione invece significa trasgredire, come trasgredire una legge o un ordine. Termina così la 23esima puntata del Pinsimonio. Io vi aspetto domani qui su Radio Città Fujiko sempre alle 9:15 per l'ultima puntata sul filone del conflitto. Buon proseguimento con Radio Zanardi. Ascolta il Pinsimonio su Radio Città Fujiko oppure in podcast sulla pagina Facebook Il Pinsimonio Radiofonico. Ringrazio di cuore H che ci ha offerto la base per questa puntata, le cui produzioni sono reperibili su soundcloud.com/hcmc. Il Pinsimonio è curato e condotto da Maurizio Casertano. Le definizioni delle parole proposte in questo programma sono tratte direttamente dal sito dell'Enciclopedia Trecani, per gentile concessione dell'editore. È vietata qualsiasi riproduzione e utilizzazione di carattere non strettamente personale, e la ritrasmissione in rete o l'invio in qualunque forma. Grazie e buona giornata. Il Pinsimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio.